Europa 24. Lettera del Presidente della Commissione europea José Barroso al Presidente russo Vladimir Putin sulla crisi ucraina e le possibili conseguenze. La fornitura di gas non deve essere interrotta, ha scritto Barroso. Conto sulla Russia perché mantenga i suoi impegni. È responsabilità di Gazprom assicurare le consegne di gas come stabilito dai contratti con le società europee. Questo nel giorno della firma a Shanghai di un memorandum per la fornitura di gas russo alla Cina. Si tratta di 38 miliardi di metri cubi di gas all'anno per 30 anni. Il contratto ha un valore da 450 miliardi di dollari. E l'Italia è uno dei paesi europei con i prezzi più elevati per gas ed elettricità per le famiglie, lo fa sapere Eurostat per la seconda metà del 2013, secondo cui l'Italia è il terzo paese più caro per il gas e il quinto per l'elettricità. Rispetto alla seconda metà del 2012, il prezzo del gas è calato e quello dell'elettricità è aumentato, ma meno della media UE. In arrivo nuove regole europee sugli aiuti di Stato in favore della ricerca e dell'innovazione. La Commissione europea ha presentato oggi qui a Bruxelles nuove regole sugli aiuti di Stato a favore della ricerca e dell'innovazione. Tra le altre cose è stato deciso di aumentare il livello di aiuto pubblico esente da notificazione ex ante per un progetto di sviluppo sperimentale da 7,5 a 15 milioni di euro. Da tempo l'esecutivo comunitario sta cercando di modernizzare le regole sugli aiuti pubblici nel mercato unico. Non si tratta di cambiare la sostanza, ma di semplificare procedure particolarmente complesse. Il tentativo è di far ripartire l'economia in molti paesi e soprattutto l'innovazione, un campo nel quale l'Europa accumula ritardi. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. I piatti italiani tipici, dalla pagliata all'osso buco, finiscono sotto la scure dei vincoli sanitari europei, ma nessuna misura è stata adottata per impedire, ad esempio, che la carne o i formaggi derivanti da animali clonati arrivi sulle tavole italiane. Questa è la denuncia di Coldiretti. Anna Marino ne ha parlato con Paolo De Castro, presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo. Certamente l'Europa è la casa della regolamentazione del settore agroalimentare, quindi è chiaro che in un lavoro di cambiamento di queste norme ci possono essere fattispecie in cui abbiamo potuto in questa legislatura migliorare significativamente. Voglio citare una norma per tutte per evitare le contraffazioni e l'uso improprio dei marchi collettivi nelle nostre prodotti di qualità denominazione, perché se pensiamo che il prosciutto San Daniele copiato nel mercato Marks Spencer e il Daniele M è finalmente uscito dagli scaffali grazie in virtù di questa nuova legge, certamente le norme comunitarie funzionano. Quindi secondo lei l'Unione Europea difende i prodotti tipici italiani? Si può fare qualcosa quindi per l'import di animali clonati, la mancanza di norme? Assolutamente sì, si può fare, anzi invito a guardare le differenze, perché questo di parlare di Europa come se fosse un'unica controparte, non è così. L'Europa è fatta del Parlamento Europeo che per esempio sugli animali clonati è stata rigidissima facendo saltare la proposta della Commissione, altrimenti poi c'è il Consiglio che rappresenta gli Stati e la Commissione che rappresenta il governo, quindi dobbiamo dare più forza alle istituzioni che rappresentano i cittadini. Riguardo alla data di scadenza che deve essere tolta, un'ipotesi che va studiata, anche perché in alcuni paesi dove già è stata introdotta la doppia scadenza si sta riducendo lo spreco di cibo. Ed è tutto per Europa 24, un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.